You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of da Valentina Furlanetto, benvenuti a questo appuntamento con Indovina chi viene a cena, la trasmissione di Radio 24 che parla di cucina e ricette per raccontare l'Italia che cambia e che ha come protagonisti i nuovi italiani, gli italiani di origine straniera. Abbiamo iniziato in modo inconsueto con questo inno di Mameli in sottofondo per parlare oggi del concetto di patria e di come la patria si può onorare oggi con il servizio civile e perché oggi possono partecipare anche i cittadini stranieri ma italiani di fatto dopo una decisione dei giudici del lavoro del Tribunale di Milano. E poi del servizio militare, perché forse qualcuno di voi lo ricorderà, qualche anno fa era scoppiato il caso di un cittadino marocchino che aveva, dopo molti anni di residenza in Italia, ricevuto la cartolina per fare il militare. Era partito, aveva fatto il militare nel 2000 in Italia e poi dopo quest'anno di militare aveva chiesto nel 2001 di avere la cittadinanza italiana per onore. Insomma, 13 anni dopo, quasi 14 anni dopo, Mohamed Jalloul non ha ancora la cittadinanza italiana. Abbiamo parlato con lui. Buonasera Mohamed Jalloul, qual è la situazione allora? Cioè, alla fine non è cambiato niente, come era prima, sono ancora adesso. Nel senso che non le hanno dato la cittadinanza? No, ancora no. Lei l'aveva richiesta quando? Me lo ricordi? Finito militare 99, nel 2000 penso che l'avevo richiesto. E nel 2006 era scoppiato questo scandalo perché lei aveva perso anche il permesso di soggiorno. Sì. E a quel punto l'avvocato aveva fatto questa richiesta per la cittadinanza. Si erano mosse anche delle personalità importanti della politica per il suo caso, ma poi che ne è stato? Niente. Niente, lei è ancora senza cittadinanza? No, ancora no. Ho fatto di nuovo la domanda 2 mesi fa, vediamo come va a finire. Senta, ricordi un attimino agli italiani e a chi ci ascolta la sua storia, cioè lei con questo bell'accento siciliano in realtà non è siciliano, no? No. Da dove viene? Sono mezzo, ma manca cittadinanza. Esatto, è siciliano italiano di fatto, le manca la cittadinanza, ma in realtà è nato, se mi ricordo bene, in Libia, però lei è marocchino di origine. Sì. E quando è arrivato in Italia? 20 anni fa più o meno. E quanti anni aveva? 13. Quindi era molto giovane, è arrivato con la famiglia, no? Sì, 2 fratelli e i genitori. In Sicilia, dove insomma avete vissuto, avete fatto le scuole, poi a un certo punto, ma com'è andata che le è arrivata la richiesta di fare il militare? Quando uno si scrive all'anagrafa, poi li mandano, fatto per fare la visita, basta, a me mi è arrivata, l'ho fatta. Dove è andato a fare la visita, si ricorda? A Catania. Al distretto di Catania la visita militare. Sì. È stato dichiarato abile? Sì. E nessuno si è accorto che aveva un passaporto straniero? A fare la visita no, quando poi ha fatto il carro, là, come si chiama? Il CAR, sì, il centro di addestramento reclute? A Orvieto c'era un tenente, non mi ricordo cos'era, ha detto sì, faccio casomai se la fai ti danno la cittadinanza, faccio vabbè allora facciamolo. Ah, le hanno detto casomai dopo le danno la cittadinanza? Sì, appena la finisci ti danno la cittadinanza, facciamo vabbè allora una volta che sono qua la facciamo. Quindi lei ha giurato alla patria, all'Italia. Sì. E ha iniziato a fare il militare dove? Lancieri di Montebello. Lei non si è mai chiesto in quel momento se era una cosa legittima o meno, il fare opportuna, come mai stesse facendo il militare? No, che me l'ho chiesto un po' sì, però alla fine... Ha pensato insomma che fosse normale dopo un po' di tempo nel paese di fare il militare. Sì. Un anno di militare, è tornato nel 2000 e che cosa è successo? Ha fatto domanda per la cittadinanza. Sì, ha fatto la domanda, ha aspettato però non mi ha dato niente. Poi nel frattempo il giornale Sicilia ha fatto un servizio, poi sono uscito nel giornale e poi ho scoperto tutto il boom. La stampa si è occupata del suo caso e è venuto alla luce il fatto che lei, nonostante abbia fatto, lo ricordiamo, nel 2000 il militare in Italia, sono passati 14 anni quasi, lei non ha ancora la cittadinanza. A un certo punto ha perso il lavoro e quindi ha perso il permesso di soggiorno e ancora di più questa cittadinanza era necessaria, no? Sì. Adesso lei ha un permesso di soggiorno? Sì. Ha un lavoro, quindi? Sì, sì, camionista. Camionista, tutti i giorni percorre le strade in Italia. Lei si sente, diceva prima, mezzo siciliano e mezzo no? Sì. Senta, che ricordi ha della sua esperienza da militare? No, no, bella, una bella esperienza. Qualcuno le ha mai chiesto durante il militare, altri ragazzi italiani che facevano il militare con lei, ma come mai tu che sei marocchino fai il militare? Qualcuno gliel'ha chiesto? Se mi ricordo bene, penso di sì. E poi anche loro sentivano l'accento siciliano, ci pareva che era un po'... Pensavano che lei fosse siciliano, certo. Sì. Va bene, la ringrazio, in bocca al lupo okay, per questa grazie. Cittadinanza. Grazie. Fino a pochi anni fa era obbligatorio in Italia prestare servizio militare, ora non è più così, ma è possibile prestare servizio civile. Una possibilità che è aperta a tutti i cittadini italiani, ma fino ad oggi non era possibile per i giovani stranieri che vivono in Italia da molti anni se non avevano conseguito la cittadinanza italiana. Infatti nel bando per il servizio civile era obbligatorio come requisito avere la cittadinanza italiana. E parlo al passato perché... pochi giorni fa il Tribunale di Milano, la sezione del lavoro del Tribunale di Milano, ha deciso di accogliere il ricorso di 4 giovani stranieri che vivono da molti anni in Italia e che in Italia volevano dare il loro contributo con il servizio civile, fare i volontari. Invece non potevano farlo e oggi invece... sarà possibile perché la sentenza è immediatamente attiva e il Tribunale ha ordinato la riapertura del bando sul servizio civile. Noi li abbiamo contattati, abbiamo voluto capire da loro perché hanno questa spinta, perché vogliono far parte della nostra comunità anche come volontari. Parleremo con alcuni di loro e partiamo subito da un ragazzo di 25 anni che è in Italia dal 96, ha studiato a Verona e proviene dallo Sri Lanka. Si chiama Katugampala Suranga Deshapriya. Ho 25 anni, sono di origini sri lankese, quindi la mia famiglia viene appunto dallo Sri Lanka e sono in Italia ormai da 17 anni, vivo qui, ho studiato qui, insomma mi sento italiano da tutti i punti di vista e con appunto la diversità del fatto di avere le origini in Sri Lanka. Il motivo di fare il servizio civile era un motivo come forse quello di tanti altri giovani, cioè quello di sentirsi, di contribuire attivamente a una cosa come il servizio civile, cioè un fattore sociale, e di sentirsi proprio chiamati a fare questa cosa. Di fronte al fatto che c'era questa clausola del fatto di avere la cittadinanza, io mi sono sentito un po', come dire, respinto di un mio sentimento, di qualcosa che io sento ma che non posso fare. E quindi ho creduto che sia giusto provare appunto a alzare la voce e quindi di dire in realtà ci sono anch'io e tante altre persone come me che vorrebbero farlo ma che non possono per una questione, mi passi il termine, burocratica. Ciao. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. You've got to give a little. Take a little. Bentornati a Indovina chi viene a cena. Anche questa puntata, questa seconda parte della puntata inizia con questa musica che sentite in sottofondo, che è una reinterpretazione della colonna sonora del film degli anni 60 da cui traiamo spunto, Indovina chi viene a cena, appunto. But when this world is through with us, torniamo a parlare con un giovane di origine straniera che ha vinto insieme a altre tre colleghe il ricorso per fare servizio civile in Italia. Si chiama Katugamprala Suranga Deshapriya ed è di origine dello Sri Lanka. Ha 25 anni e ci sta raccontando la sua esperienza, anche la volontà di fare servizio civile nonostante lui abbia già un lavoro. Sì, sono già laureato, ho fatto un master e adesso lavoro. Quindi adesso lavora, quindi non è neanche un'esigenza, diciamo così, per un rimborso legittimo? No, infatti assolutamente, era una delle cose che ho preferito e preferisco tuttora ripetere, che non voglio fare il servizio civile perché non ho, come dire, non ho un'occupazione, non saprei come utilizzare il mio tempo, anzi no, ho un lavoro anche a tempo indeterminato, se vogliamo proprio dirlo, e l'esigenza di andare a farlo, quindi servizio civile, è proprio un desiderio diretto, non perché arrivo lì, perché appunto, come dicevo prima, non ci sono altre possibilità, ecco. Quindi una spinta proprio di essere incluso in questa società, dare indietro sì, qualcosa? Assolutamente sì, perché io credo che persone come me, cioè di seconda generazione di stranieri, diciamolo in questo modo, con questa termine, etichetta, sia una nuova forza per questo paese, e secondo me includerci è una cosa positiva ma anche vantaggiosa, e quindi sono contento. Che ricordi ha dello Sri Lanka? Molto belli, ma molto costruttivi anche, perché appunto è questa la forza di cui parlavo, cioè porto con me, diciamo, due culture, e questo per me è un punto di forza, perché riesco a vedere le cose da due punti di vista, non solo magari in un modo occidentale, ma anche in un modo orientale, senza come dire, discriminare uno o l'altro, ma mi piace questa cosa di avere, diciamo, due punti di vista che mi fanno vedere le cose forse con una profondità, spero, maggiore rispetto a un unico punto di vista. Lei però si sente italiano? Sì, assolutamente. Anche Buas Anual, di 25 anni, origini marocchine, in Italia dal 2000, aveva fatto richiesta e poi, quando l'ha vista respinta, ha fatto ricorso e ora l'ha vinto. Ho letto il bando, visto che comunque il requisito della cittadinanza era richiesto, però ero già andata a un convegno fatto dall'associazione Naga, e Avvocati per Niente, e ne avevano parlato che comunque anche gli altri anni era successa questa cosa, che avevano comunque fatto ricorso, qua a Milano avevano vinto e a Brescia avevano perso per causa, E quindi io ho scritto all'avvocato Neri, che poi mi ha indirizzato all'avvocato Guariso, e poi abbiamo fatto il ricorso. Guarda, ti possiamo dare una mano? Ho detto sì. Faccio già volontariato da 2 anni, circa 2 anni. Lei è quindi una volontaria da anni, e perché ha sentito il bisogno, la spinta di fare il servizio civile? Fare volontariato, diciamo, mi è sempre interessato, mi sono trovata molto bene facendo parte di queste due associazioni, che facciamo volontariato un po'. Con una per le donne straniere, con l'altra aiutando ragazzi stranieri e non stranieri, ragazzi degli elementari, le aiutiamo nello studio, eccetera. E quindi quando si è presentata la possibilità, un'amica mi ha detto: guarda che c'è il bando per il servizio civile, mi sono un po' informato, ho detto perché no, e comunque attualmente non sto lavorando, quindi avevo tempo e ho detto un'altra opportunità per dare una mano. E quindi ha fatto richiesta? Sì. E con suo disappunto questa richiesta subito non è stata accolta. Adesso c'è stata questa sentenza, sì, che vi dà ragione, considera il vostro apporto importante per la comunità italiana. Cosa ha provato quando ha visto questa sentenza? Ero assolutamente contenta. Molto contenta. È una soddisfazione che va oltre, sì, immagino, questo episodio, una soddisfazione proprio per lei come italiana, che di venire riconosciuta come italiana nonostante non abbia ancora la cittadinanza. Sì, non ancora, ho fatto richiesta 3 anni fa e per adesso non ho ancora avuto risposta. Lei ha 25 anni, sì, è in Italia da moltissimo tempo, ha studiato qui, no? Ho studiato fino a un diploma di scuola superiore, sì. E lei si sente italiana? Sì. Altrimenti non avrei fatto richiesta. La sua perplessità quando gliel'ho chiesto deriva dal fatto che le sembra strano che io glielo chieda, oppure da un'incertezza sulla sua identità? No, assolutamente, cioè una non esclude l'altra, cioè non posso dire che sì, sono italiano, ma questo non per forza deve escludere le mie origini, le mie tradizioni, eccetera. That's the glory of love. And when the world is... Un'altra giovane che vuole fare la volontaria in Italia e quindi accedere al servizio civile è l'ucraina Todi Renchuk, Mariana. Sono arrivata in Italia all'età di 9 anni, nel 2003. Vivo in Italia da 10 anni, ma sono residente qua da 9. E però, quindi non ho ancora la cittadinanza italiana, ed è per questo quando poi ho voluto, appunto, mi stavo informando un po' del servizio civile nazionale, comunque per fare volontariato, per fare qualcosa, mi è stato appunto presentato, mi è stato fatto presente questo bando del servizio civile. Però non, cioè, io ho provato a mandare la richiesta, ma poi effettivamente leggendo i requisiti, il requisito che c'era era proprio quello della cittadinanza, per cui io non ho potuto fare la fine richiesta. E immagino che sia stata una grande delusione per lei. Sì, appunto, è stata una grande delusione, ma soprattutto perché, appunto, come lo ho già detto, cioè è stato proprio come se mi avessero fatto, diciamo, sentire in un certo modo inferiore, in quanto comunque io per fare il servizio di volontariato non è che ci vuole, penso, questo requisito della cittadinanza. Perché comunque non è a scopo pecuniare, ma anzi è comunque un modo per aiutare, eccetera. E invece, insomma, ci voleva questo requisito, cosa che, insomma, in parte l'ha delusa e offesa, immagino, anche perché lei è da tanti anni in Italia, ha fatto le scuole in Italia. Si sente italiana? Sì, guarda, cioè, io non sarò mai italiana al 100%, ma neanche con la cittadinanza, questo quindi non cambia. Cioè, io ho tutti i miei amici italiani, perché frequento alle scuole della quarta elementare, per cui sono sempre stata in mezzo agli italiani, quindi io ho sempre rispettato la legge, gli obblighi che avevo, quindi non capisco quale sia il problema per cui io non possa invece partecipare a un servizio, cioè ad aiutare, quindi a fare volontariato. Certo. Quindi è stato comunque irrispettoso anche nei confronti dei cittadini regolarmente, cioè dei cittadini stranieri regolarmente residenti, soggiornanti comunque in Italia. Lei adesso ha 20 anni e studia, no? Che cosa fa? Sì, faccio giurisprudenza alla Statale di Milano. Che cosa l'ha spinta a chiedere di fare servizio civile? Una ragazza giovane, già impegnata nello studio, perché vuole fare volontariato? Perché comunque è un'esperienza di vita, un'esperienza importante che serve appunto allo sviluppo personale, e quindi è comunque qualcosa che mi interessa. Ho già fatto un po' volontariato, sempre di cose comunque piccole riguardanti la parrocchia che frequentavo, però comunque penso che questo sia una bella esperienza da poter vivere, e quindi ho pensato di far qualcosa. In che ambito vuole fare volontariato? Beni culturali soprattutto, culturali, poi riguardanti l'università, quindi l'istruzione in generale. Crede che questo atto della magistratura in qualche maniera cambi qualcosa nella percezione degli italiani di origine straniera? Adesso abbiamo anche un ministro di origine straniera. Crede che la magistratura stia facendo un po' più della politica? Penso di sì, comunque, cioè, più che altro spero che effettivamente si cambi qualcosa. You've got to win a little, lose a little, and always have the blues a little. That's the story of, that's the glory of love. Mariana, lei diceva ha sempre frequentato italiani. Le è mai capitato, come amici, alle scuole, eccetera, le è mai capitato di subire un pregiudizio o delle forme di razzismo? Io, essendo ucraina, no. Però ho visto comunque forme anche di razzismo, diciamo, non violento, un razzismo leggero, comunque discriminatorio rispetto ai cittadini extracomunitari di altri paesi. The blues a little, that's the story of, that's the glory of love. Niente ricette quest'oggi, ma come avete sentito, i nostri ragazzi che hanno voluto strenuamente partecipare al bando per il servizio civile nazionale e che ora hanno avuto ragione, e quindi gli auguriamo un in bocca al lupo di cuore. Non si è risolta invece, prima di chiudere, la situazione di Mohamed Jalloul, marocchino, che aveva fatto il servizio militare in Italia.